America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, solo andata. Beh, è un pochino che non dedichiamo una puntata a questo filone, a queste storie di persone che a un certo punto dall'Italia hanno deciso di prendere un biglietto di solo andata per venire in America. Mi mancava la professione pittore. E la storia che vi voglio raccontare oggi è la storia di Bernardo Siciliano, che è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Bernardo. Buongiorno, buongiorno. Allora Bernardo, raccontaci questa tua avventura di pittore a New York. Io sono arrivato a New York nel 96, ero molto giovane, avevo 25 anni, quindi allora ho fatto proprio la gavetta. Stavo a Williamsburg, dove Williamsburg a quel tempo era un quartiere malfamato. Avevo un grande studio che era un ex crack house, tutta dipinta di nero, che ho dovuto ridipingere di bianco. La dividevo con uno scultore, bravissimo con le mani. Grazie a lui quello studio è diventato tale, prima era veramente un antro. Ma tu sei venuto a New York perché cercavi l'ispirazione, perché ti attirava l'America, perché ti attirava la città, perché cercavi fortuna, o era una molla che così che ti ha spinto a venire senza neanche pensarci? No, io sono venuto per due ragioni. La prima personale, rincorrere un amore che poi è diventata una donna con cui mi sono sposato e ho fatto una figlia. La seconda professionale, cioè avevo una galleria a Roma e il gallerista romano, che poi non è di Napoli in realtà, viveva a New York già da molti anni. Ed era qui un mercante affermato. Ed era, si chiamava? Sandro Manzo. Sandro Manzo, personaggio leggendario per la galleria d'arte a New York. Insomma, in quei primi anni queste due presenze sono state fondamentali per il mio strutturarmi in questa città. Ma tu ti sei formato come pittore come? Sei stata all'accademia? Sei autodidatta? Sono autodidatta, però in un certo senso anche no. Vengo da una famiglia di artisti. Mia madre era una pittrice. Mio padre era uno scrittore importante in Italia. Grazie a lui ho conosciuto tutti. Tuo padre era? Enzo Siciliano. Enzo Siciliano, certo, grande scrittore italiano. Quindi ho conosciuto molti pittori della sua generazione, importanti. Renzo Vespignani, Mario Schifano, Piero Cuccione, che sono state persone con cui ho avuto dei rapporti diretti e che mi hanno insegnato in qualche modo il mestiere. Io ho iniziato a dipingere a 6 anni e mia madre mi ha fatto proprio un training. Però effettivamente sono un autodidatta. Io quest'anno ho iniziato a insegnare alla New York Academy of Art una volta alla settimana per il piacere di insegnare. E mi rendo conto che in effetti il modo in cui io ho iniziato a dipingere, a costruire il mio mestiere, è assolutamente strano. Quali sono i requirements? Si viene qui, si fanno due quadri e via, oppure ci si butta sotto a lavorare? Beh, ci sono due livelli di mercato. C'è un mercato, diciamo, che è quello che, semplificando, chiamerei di Chelsea, che è un mercato dove il mestiere del pittore è visto con una certa diffidenza. Poi però c'è un mercato invece reale. In che senso? Per le gallerie di grido, di tendenza, hanno come scelta artisti che si occupano di linguaggi alternativi. O se fanno della pittura, la fanno, diciamo, in modo trasversale. Ma il pittore, per come la intendo io, cioè che sta lì sul cavalletto 8 ore al giorno per risolvere un problema di segno, per una forma, di una composizione e così via, non che non esista, ci sono dei casi di altissimo livello e di grandissimo successo, ma la tendenza del mercato è quella di saltare questo passaggio per arrivare direttamente a una forma d'arte che abbia una capacità comunicativa più semplice e più diretta con un pubblico che non è avvezzo alla cultura, diciamo così, relativa al mondo della pittura antica o contemporanea, ma comunque in relazione a una tradizione. E dunque il tuo mercato qual è? Appunto, detto questo, però, poi pittori come me ce ne sono tanti che vendono e hanno delle gallerie. Io ho anche una galleria in città che sta sulla Quinta, però e non c'è dubbio che fanno un po' più fatica. Scusa, hai detto una galleria in città, perché tu non lavori in città che a Manhattan, tu lavori dove? Io lavoro a Brooklyn, sì. A Brooklyn, di fronte a Dumbo, di fronte sotto il ponte di Brooklyn. Beh, ma è lì dove ci stanno tutti quelli, diciamo, che sono un po' all'avanguardia. Dunque, è stato così. Oggi Dumbo è esattamente identica a Soho. Dumbo è stata un posto, diciamo, interessante e molto edgy fino al 2002-2003, forse 2004. Dopodiché è diventata la moda. Perché diciamolo ai nostri ascoltatori, cioè New York si è allargata improvvisamente. Sì. E Brooklyn, che sembrava di andare in periferia, adesso è alla moda. Kent la costa, Street, la costa. Sulla costa. Williamsburg e Dumbo. Cosa si deve aspettare qualcuno che arriva in America così, partendo giovane, magari senza avere delle certezze? Io sono innamorato pazzo di New York. La dipingo da sempre. Mi piace camminare per strada. Ho un rapporto con la città, però molto particolare. Non vado in d'ufficio. Io sto per conto mio, ho un mercante in città, ripeto. Beh, dunque la buona notizia è che vendi comunque questi tuoi quadri, li vendi. Sì, sì, sì. Hai sì, successo. Sì. Pago i miei bills. Paghi i tuoi bills, sì. Forse qualcosa in più, ma sì. Comunque sì. Comunque diciamo l'immagine dell'artista il quale così soffre, cioè, no, perché New York, se uno è bravo, e mi riferisco anche al cantante, mi riferisco anche a, insomma, gli artisti guadagnano e lavorano, cioè, bene. Cioè questo effettivamente è un posto dove i mestieri legati alle arti espressive sono considerati mestieri. Se sei bravo e sei fortunato, perché non basta essere bravi, e hai delle buone connection, puoi guadagnare molti soldi. Se devi dare un consiglio a un giovane che magari sta pensando di venire in America o a New York, cosa gli dici? C'è anche un altro dato però, che sì, mi accoglie accoglientissimo, sono felicissimo di stare qua, ma non c'è dubbio che in proporzione è molto più cara di 15 anni fa. Quindi è molto più difficile per un ragazzo oggi che fa dei mestieri strani arrivare in questa città e farcela, perché gli affitti sono carissimi. Quando sono arrivato io c'erano delle zone, diciamo così, lacustri su, da questo punto di vista, in cui ragazzi di belle speranze da tutto il mondo potevano venire e arrangiarsi. L'arte di arrangiarsi a New York oggi è praticamente impossibile. Qui devi venire coperto. Questo è il dato. L'income pro capite delle persone è alto, altissimo. Ora non era così prima. Ecco, torniamo al messaggio al giovane o al non giovane, perché qui in queste puntate di Solo Andato ho avuto persone di oltre 60 anni, di 70 anni che a un certo punto hanno preso e sono venute, si sono prese questo biglietto di Solo Andata. Ecco, se c'è qualcuno che in questo momento ci ascolta in macchina e così e dice ma ci vado o non ci vado, cosa gli dici? Ci vai, certo. Però deve avere molta voglia e sapere che è dura. Il fatto che sia dura mica è un difetto, anzi potrebbe essere una qualità. Bisogna faticarsela. La città è molto, come hai detto tu, competition is competition, esattamente. È una città terribilmente competitiva in tutti i sensi. Però grazie a questo hai la possibilità di vedere e forse di fruire il meglio del mondo da tutti i punti di vista. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, allora, Bernardo, la canzone del giorno, quando un ospite è in studio, tradizione che la scelga lui. Cosa vogliamo far ascoltare? Io sceglierei, forse mi viene in mente, siccome mi piace moltissimo Bob Dylan, una canzone che mi piace molto, che canta Bob Dylan, l'ha fatta in varie versioni, quella da vecchio ora, fatta adesso, che si chiama Dignity. Dignity, una canzone a sorpresa. Perché Dignity? Perché cosa dice questo testo? Ma parla del punto di dignità, è molto ironico, si prende in giro, si prende sul serio, come spesso fa Dylan. Mi fa molta compagnia Dylan in generale, lo sento sempre quando dipingo. E dunque Dylan, Dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the last to leave. Went into the cities, went into the towns, to the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.